Sono le 7:30. Questa è la colazione di Rock FM. C'è qualcuno che ha problemi? If you have a problem, if no one else can help, se nessuno può aiutarvi, maybe you can hire, potete chiamare Pane, Burro e Rock and Roll dalle 7 alle 9 del mattino. Problemi sicuramente ce li ha il patentato 198, che quest'oggi va nuovo posto di lavoro. Posso invocare la strombazzata del mitico Mister Trombetta? Post scriptum. Gli ACDC con la bocca mi inquietano. Fai bene. Fai bene. Ma è con un'altra immagine. No, tra l'altro mi scrive qualcun altro. Domanda inquietante. Ma oggi è martedì grasso? Ma che ne so io? Io carnevale ormai ho chiuso. Dato domenica celle sto preciso. Sono a posto per i prossimi 3 anni di carnevale, eh? Ridatemi Mister Trombetta. Allora, nel viaggiare tra i vari gruppi d'ascolto voglio regalarvi questa immagine meravigliosa. Arriva da Como ed è così che voglio proseguire la trasmissione. Grazie alla mia bimba di 1 mese che a quest'ora mangia e deve fare il ruttino, riesco ad ascoltarvi. Meno male che ci siete voi, se no sai che palle. E si addormenta pure. Baci, ce lo scrive Manuela e la piccola Emma da Como. Amici ed amiche, voglio veramente che tutti ci si concentri, tutti a pensare a questo meraviglioso suono del ruttino di Emma, così per affrontare la giornata. Piacerebbe avercelo registrato per farvelo sentire. Guarda che forte iniziare la giornata con un ruttino santo però, eh? Moody Blues, I'm just a singer in a rock and roll band. Occhio, tra poco arriva Zorrock, preparatevi. Preparate le audiocassette. Le avete ancora le audiocassette? C'è qualcuno che mi ascolta da un autoradio, cioè da una radio con le audiocassette? 335 1007 777, il numero di SMS di Pane, Burro e Rock and Roll, di Rock FM in realtà, in funzione 24 ore su 24. Vedo con piacere che molti dei messaggi di quest'oggi sono dedicati al calendario 2008, l'anno della svolta, il calendario di Pane, Burro e Rock and Roll, che da qualche giorno è fisso sull'immagine di Abbey Road, la storica copertina dei Beatles che attraversano la strada, originariamente con i Beatles, nel nostro calendario con Uè Fabione Treves, Maurizio Faulisi, Fricantoni e l'Ariele, ve li ho letti da sinistra a destra. Qualcuno stamane commenta: avevo un'altra immagine di John e Yoko. Secondo me siamo più belli io e Frick rispetto a John e Yoko, ma questo è un parere assolutamente personale. Però ci tengo a ringraziare Angelo da Varazze, patentato 986, che ci segnala la presenza del calendario di Pane, Burro e Rock and Roll dietro al bancone di prestito della biblioteca di Varazze. Che mi fa piacere, insomma, calendario nei luoghi pubblici mi fa piacere un po' così. Per così, insomma, mi fa piacere che è esposto in luoghi pubblici. Solo qualche secondo per preparare gli amici della prima ora che ancora non hanno subito il trauma della nostra radionovela. Andrà in onda tra veramente due minuti, il tempo di gustarci una canzone. Voglio solo presentarvela, è una radionovela ambientata a Sweet Home Alabama, una cittadina del Messico, governata da un cattivissimo dittatore che risponde al nome di Carlos Frick Santana, interpretato nella nostra radionovela dal maestro Roberto Fricantoni. C'è un supereroe che si chiama Zorrock, in realtà quando non ha la mascherina si chiama Don Marco della Gara, interpretato, e perdonatemi, ci tengo a segnalare la meravigliosa interpretazione del collega Marco Garavelli che si è prestato al gioco di Zorrock, e altre sorprese che scoprirete nella prima puntata di Zorrock in replica tra 2 minuti e 6 secondi, il tempo di gustarci insieme You Got to Hide Your Love Away, Beatles. Quindi prima vi sciacquate la bocca coi Beatles e poi vi ascoltate Zorrock. Che bel programmino per la mattinata, ragazzi. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. See them laugh at me, and I hear them say, thank you.

piccoli problemi di cuore e ale ale ale oh oh. Che bella notizia! Allora ragazzi, è ufficiale, da lunedì ci troverete The Rock FM. Ragazzi, che bello! Ci divertiremo come mai. Ma non fai colazione? Aspetto l'ispirazione. Scegli una colazione diversa. Scegli pane, burro e rock and roll. Romanticerrimi, Mr. Big di To Be With You, 7:51 minuti primi. Devo dire che dai messaggi di oggi sembra essere anche la giornata dell'outing di nuovi radioascoltatori che confessano: abbiamo abbandonato altre frequenze radiofoniche per ascoltarvi. Bravi, complimentoni. Ce n'è altri? C'è qualcuno che mi ascolta in questo momento, che è da poco che sta ascoltando Rock FM, abbandonando altre frequenze radiofoniche? Fatecelo sapere al 335-100-7777. Perché mi è venuta in mente una cosa che potremmo fare. Redazione, dovreste rintracciarmi il numero del patentato 147, il radioascoltatore che si occupava della concorrenza. Mi è venuta una mezza idea, eh? Vediamo se riusciamo a sentirlo più tardi. Che bello, pane burro rock and roll, senti. Tanti complimenti per Zorrock, grazie. Tante le segnalazioni di amici e amiche che ci ascoltano da autoradio con Mangianastri. C'era anche un'amica che dice la mia se li mangia veramente i nastri, nel senso che gli rimangono dentro e non escono più, ma se mi concentro un attimo riesco a sentire il vostro pensiero, riesco a sentire la domanda che arrovella le menti assonnate dei radioascoltatori e delle radioascoltatrici di Pane, Burro e Rock and Roll. E la domanda è una: ma come può un artista completo come Roberto Friccantoni, un artista poliedrico che può inventare il rock demenziale e può allo stesso tempo interpretare la radionovela Zorrock come se attore ci fosse nato, come può un artista come lui dover andare a arrotondare lo stipendio in metropolitana? Ragazzi, la vita, cito l'amico Toffolo, la vita è cattiva, ma non l'ho inventata io. Ci colleghiamo con la metropolitana. Oh. Salute a tutti dalla linea rossa. Sì, oggi ho già frequentato la linea verde e quella gialla. Buongiorno a tutti, signori, signore, signorine. Salve, mi presento, sono Roberto detto Fricantoni, poeta, cantante, fine dicitore, che vorrebbe intrattenervi chiedendo un misero obolo, se potete, e per arrotondare un momentaccio, con le poesie di un poeta che io, per il quale stravedo, Fosco Maraini. Più raro, più simferbo, più merconio, il Procrate dagli occhi a dragonetti scocolla barcoluto e invereconio all'ora dei morfegi e dei gorbetti. Grande Frick, mi fai spezzare, tieni! Oh, 50 euro! Grazie, ma veramente sono un facsimile, c'è la riproduzione di un istituto di credito. Beh, grazie comunque. Provo a riciclarmeli al bar. Me li gioco alla slot machine.